essere passato adesso i punti, dai, ok? Come la radio, sta uscendo bene, anche di segnale e di radio, ottimo a tutto. Mi è sembrato di sentire un break in lontananza. Non lo so, avanti il break. C'è qualcosa in propagazione lontano, era vabbè. Mi arrivo va bene, però me l'ho sentito chiaro chiaro. Io non ho sentito niente. Ok, oggi è un po' strana la giornata, infatti sentivo anche segnali abbastanza forti, però che si tiravano appresso di intermodulazione, cose strane, ecco. Finito lavoro o divertimento? Finito lavoro, ma sono salito anche a stasera per alcune commissioni, ho approfittato a fare tipo una specie di battevonto, dai, diciamo. Alcune cosettine che dovevo sbrigarmi, e poi faccio tutto quanto, quindi me ne sto scendendo. Ma questo è il microfono originale dell'apparato, questo è un A48, mi hai detto. No, negativo, no, questo è un Antartic come microfono, un Antartic americano, l'apparato è uno S9. Ah, mi hai detto, non troppo bene sta uscendo, una bella modulazione, complimenti. Grazie, Roberto, oggi mai più meglio della macchina che da casa. Ma per certi versi, in certe situazioni sì, lo posso dire e confermare, perché c'è una radio perfetta, bella, chiara, pulita, non c'ha i picchi di nessun genere, proprio lineare, come piace a me. Venga. E l'antennina questa qua per una questione di un pochettino di design, adesso ho questa mini turbo montata, ma nell'occorrenza quando mi sposto ho anche la 2001, dai, che è un intercambio, diciamo così, sfrutto in base alla situazione. Guardate che è uno dei pochi microfoni che non ho mai avuto, li ho solo sentiti, però fanno più che bene, è veramente una bella modulazione. E poi vabbè c'è l'apparato appresso che dice in altrettanto modo. Sì, ma infatti sì, è un bel microfono che si abbina diciamo come design alla radio, come fatto, cioè cromato con la bandiera americana come la radio, no? Col frontalino. Giusto per essere a tema, dopo invece si è rilevato oltretutto, io l'ho preso così, non l'avevo mai sentito né chiedere a nessuno come va, come non va. A Giuveriato ci ho fatto un'impresa. Capito Roberto? E si è rilevato invece un ottimo microfono, ripeto, non è un... si vede che è massiccio come microfono, dentro ci avrà qualche cosa, ma non è amplificato, capito? Non è alimentata batteria. Ma prova a sentire bene, se non ti disturba tirane via l'eco completamente. Sì, guarda, io tante volte lo metto così a chi te la ghiti, ma guarda, adesso è pulita. No. Era, diciamo, non era cattivo, nel senso era abbastanza piacevole, però a me l'eco, nel tuo parlare radio, le modulazioni non mi è mai piaciuto, cioè per l'uso che ne facciamo noi, poi se parli camionisti che si vanno a far sentire in lontananza può essere utile, però se una radio il segnale è buono, cosa deve fare l'eco? Sì, ma io guarda, l'ho preso come te, l'ho sempre detto, l'ho messo così, l'ho regolato, detto che non era né troppo invadente, né troppo eccessivo, diciamo, ripetitivo, wow, capito? Senza quelle cose le avevo lasciato leggermente così, anche perché mi sto ascoltando, con il parlo ascolta, però io lo stesso la preferisco, diciamo così, limpida. È perfetta, guarda, è una delle migliori modulazioni in movimento che abbiamo sentito, veramente è perfetta, niente da dire. Grazie, Robert. Quando ci spendi qualche soldino, deve essere, le cose devono per forza andare, perché sempre da purendi e via dicendo. Va benissimo, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Faccio una chiamata anche io, vediamo se magari mi ascolta Roberto, attenzione canale 12 in compagnia di Roberto e di Luca in rientro, avanti che vuole entrare. Uno, poi mi sono notato un attimino perché arrivo al telefono, su quella entrata non verrà benissimo. No, io negativo, ero dentro, stavo ritirando un po' di roba, diciamo, facendo un po' di spesa, rientrando e ho approfittato a prendere un po' di roba da mettere in magazzino, così un po' di pomodori, un po' di quella roba che può rimanere, diciamo, capito? Va bene. Oggi sembrava pomeriggio, si è svelato un pochettino qui a Porto Torres, però è iniziata l'estate secondo me. Forse sabato e domenica c'è una piccola perturbazione. Ma domani non dovrebbe piovere, almeno sino a tarda notte non piove. Domenica è prevista acqua. anche abbastanza moderata, diciamo, abbastanza forte. Le temperature si abbassano di parecchio, anche di 7-10 gradi come temperature. Sino a lunedì martedì poi c'è un leggero miglioramento, il giovedì qualche passatina di più, già mi dispiace solo quello, perché volevo uscire un po' col camper, mentre il 25 non è previsto bel tempo. Poi c'è miglioramento per il primo maggio, c'è un pochettino di miglioramento. Però ancora il caldo che abbiamo sopportato in questi giorni ce lo scordiamo, almeno per un po' di tempo. Si ristabilizzeranno le temperature come le medie, diciamo, stagionali, perché ha fatto del caldo oltre le medie stagionali in questi giorni. Sì, dai, vabbè, ma le stagioni oramai si sono, da 4 si sono ridotte a 2, ecco, salvo qualche passone così estivo che già c'è stato qualche volta, anche in luglio, in agosto, simpatico oltretutto. Certo, bene. Allora, prima, non ricordo quando un ragazzino molte volte la Pasquetta, magari potevi anche esagerare, ti faceva anche qualche bagnetto, se la Pasqua capitava intorno a metà di aprile. Chissà, i primi bagnetti li fai sempre a giugno. Mentre per dire, a settembre, dopo, noi dicevamo, c'era la buia dei Candelieri a curare i Brasili. Sto notando che invece le stagioni estive si stanno allungando, per dire, parte un po' in ritardo da giugno inoltrato e finisce sino a ottobre inoltrato l'estate. Sì, sì. Secondo come anche ottobre, settembre, ottobre, qui c'era ancora, non questa dell'anno scorso, mi sembra di no, però qualche stagione c'è stata ancora gente che andava al mare. Sì, non lo so, ormai non ci sono più le mezze stagioni, anche il vestiario, capito? Non prima, per dire, a primavera iniziavi già a metterti il golfino leggero, e non vi di quel punto arriva la manfatta del caldo, e poi di nuovo, la settimana dopo devi uscire con giubbotto pesante perché c'è freddo. Sta succedendo così, non c'è una cosa graduale, piano piano, come per dire succedeva 30 anni fa, quando ero ragazzo, nel senso, andava gradatamente, ti mettevi, poi piano piano ti vestivi più leggero, invece no, di colpo, non vi arrivi l'estate di colpo, così in inverno. A novembre arriva l'inverno di colpo, sino c'è la settimana prima i pantaloncini e le magliette. Allora, io sì. Sì, io guarda, sono già all'ingresso di Porto Torres. Come mi stai ricevendo sempre bene, Robè? Come il segnale? Hai fatto il telefono? Ok, comunque sei oltre 9 qua, di segnale radio Super 5. Sì, io mi sto ascoltando dal Galaxy in cuffia. Poco a poco dobbiamo perché hai fatto due passaggi con un apparato, l'altro apparato cos'era? Un apparato di Galaxy. Poi ho provato, guarda così, sono col microfono amplificato, no, con 68, poi ho provato il microfono originale Midland, palmare non amplificato, aspetta, provo con quello. Ok, c'è una bella differenza. E invece questo qui è l'originale del Midland, del palmare normale. Questa è una bella modulazione, bella bella. Però senza amplificato, vedi? Non lo so, mi sento anch'io meglio con questo. È un pochettino citofonica, dai. Eh sì, anch'io mi sentivo in cuffia così. Strano, invece ieri no, forse per la batteria scarica, cosa pochettini, neppure meno male. O perché abbia cambiato la capsula, ma non credo, può darsi. Ma questo puoi alzarla ancora un po' di più il livello microfonico. Ti ho capito, cosa hai detto? Se puoi alzare il livello microfonico di questo. No, qui è tutta maletta, qui è tutto così. Non so se ce l'hai presente, come la 68 S, il Mickey Gain è tutta maletta e basta, solo questo posso regolare. Schiacciare il portante e basta. Però questa modulazione è bellissima, spettacolare, proprio bella. Non è forte come l'altra, però è bella come piace a me. E vedi, invece l'altro te lo dà, sì, forte, però me lo senti in cuffia che è proprio amplificata, ecco, che sono a 2, se la metto a 5 o 6 è anche troppo forte. Me la sento, sì, amplificata, però non lo so, come che rimbombi la voce, è un problema, comunque ti amplificati non puoi regolare più di tanto. Sai cosa puoi fare per vedere se ti cambia la modulazione? Invertire l'amplificazione, per dire metti quella del Mickey Gain a metà e quella del microfono al massimo e vediamo se ti cambia le tonalità. E poi fai il passaggio inverso, metti quella dell'apparato al massimo e quella del microfono a metà e vediamo se ti modifica anche le tonalità. Ehi, è giusto, sono preso con quello, ora tolgo l'originale e metto l'MB più 5, l'MB più 4, aspetta. Ok, adesso ci sono, benissimo, adesso faccio così, Mickey Gain del 68 lo metto a metà e MP più 4 a 5. No, sali al massimo, fai due cose, metà il Mickey Gain del coso dell'apparato e massimo l'MB più 4. Ok, l'MB più 4 c'è al massimo, è a 10 e il Mickey Gain dell'apparato a metà. Adesso fai il contrario, metti al massimo l'apparato e a metà, voglio vedere se ti cambia anche le tonalità. Ok, adesso ho messo le MB più 4, 5, il Mickey dell'apparato al massimo, tutta maletta. Già c'ha un difetto col microfono, ti cambia la modulazione, nel senso ti esalta le tonalità medie. Adesso fai come ti dico io, metti a metà il coso, l'apparato, e solleva il mic del coso del microfono. Da così è a metà apparato, viene, e sono sempre a 5, sono sia a metà uno che a metà l'altro. No, sali ancora, al massimo a questo momento. Al massimo, ecco, così sono a 10, così a manetta. Ma va a fare un passaggio lungo? Vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedi un po' come mi ascolti. Ecco, solleva, vediamo un pochettino, sollevando un pochettino di più il mic dell'apparato. Mettilo oltre la metà. La metà tra il massimo e la metà. Perfetto, sto regolando. Così, è la metà del massimo, vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dunque per il giro per il massimo devo fare un altro mezzo giro, così si a metà della fine. E se abbassa quello del coso, del Mickey Gain, diminuisci del microfono, abbassalo un pochettino, mettila alla metà del coso, tra il massimo, tra la metà e il massimo. Ok, ecco qua, vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. È passaggio lungo, no? Lì, frequenza, canale, così magari riesco a individuarti un pochettino. Va bene, ora, sto utilizzando il 68S, MB più 4 a 8, la metà del massimo del Mickey Gain dell'apparato. Vedi un po'. Diminuisci un pochettino il coso, il microfono, dal microfono, e solleva l'altro, voglio vedere ancora. Ok, adesso sto diminuendo, il microfono l'ho messo a 5, e questo l'ho aumentato leggermente nel 68. No, non mi piace così. No, forse la posizione migliore, lo sai com'è? A metà, e prova di nuovo, metti a metà l'apparato, verso il massimo, e poi facciamo la regolazione lì, verso il massimo il microfono, l'MB più 4. Ok, metà apparato, sto aumentando, questo al massimo, e lo sto mettendo a 7, regolazione a 7 del microfono da tavolo, e a metà il mitigating dell'apparato, vedi un po', prova microfono. Serra il microfono, il mic, il livello microfonico dal microfono. Ok, da 7 sto passando quasi a 9. Vedi un po', prova microfono, 1, 2, 3, prova microfono. Dimmi una cosa, quanto è adesso l'apparato? L'apparato è sempre a metà, il mitigain dell'apparato è a metà, e il microfono è a 9. Aspetta, lasciami memorizzare, perché sto cercando di capire cosa ti varia. Allora, abbiamo detto, il microfono ce l'hai, l'apparato a metà, mentre il coso sei quasi al massimo. Prova, facciamo una prova al massimo, mi fai due passaggi, così al massimo il microfono, il livello microfonico dal microfono, e poi me lo rimetti la via di mezzo tra il massimo e la metà. Perfettissimo. Allora, così a manetta prova microfono con le MB più 4, a manetta. Così, da 10 sono passato a 8, prova microfono, 1, 2, 3. Allora, questa probabilmente quello che riesce a tirare meglio da quel tipo di configurazione, tra apparato e microfono, cioè ti dà un leggero miglioramento, però c'è da dire che non è ideale, perché anche qua c'è come ho detto prima, predominanza di tonalità medie e medio basse, sia un leggermente carente di bassi e di tonalità acute, per cui c'è il cosiddetto panettone come grafico di risposta, però è una via di mezzo accettabile rispetto a come di prima, che è un pochettino troppo esaltato in certe, per certe tonalità, diciamo abbiamo un pochettino diminuiti quei pochettini difetti, quei difetti che c'erano li abbiamo diminuiti, però più di così non si può fare. Allora, con quel microfono è il massimo che puoi uscire, poi ci vorrebbe un altro tipo di microfono, tipo uno di quelli che hanno il controllo di tono, e fare delle prove, usare un Tamer, non lo so, un qualunque altro tipo di microfono, così possiamo fare le comparazioni. Quello che adesso è cambiato, adesso ho messo questo rimane molto più rischiabile, no? è meno pesante, c'è da dire, quando attacchi questo è bassissima la radio, dovresti sollevarlo alla manetta il coso, Michele. Devi stabilire se vuoi usare quello amplificato, la regolazione va bene, se invece devi usare quello normale non amplificato, devi sollevare al massimo il mic gain dell'apparato, se no è troppo bassa la radio. Adesso l'ho messo al massimo, sicuramente dobbiamo aver migliorato qualcosa. È voglia, adesso sì. Però vedi, secondo te è più orecchiabile, molto più, non lo so, più piacevole, non troppo incisiva questa. È bella, è più naturale, è bella, mi piace. Attento che c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare. Cazzo, allora, buonasera a tutti, dai, sto provando un microfono, come va la modulazione? Ti ascolto bene già, che microfono è, che apparato è? Microfono, un MB più 5 con la capsula del Silvio, dai. Bella, va bene. Con che apparato? Con il Midland alla 48 Plus. Antonio, bene va? Ehi, già, ti sento benissimo, forte e chiaro. Cavagava, va bene così allora, piazzata e fatto tutto. Ora, cazzo, ne abbiamo come di modulazione, si vede qua. Hai bellissima la radio, prova un attimino solo a livello di curiosità, e tu a che livello ce l'hai? 10. Al massimo? Quindi solo il livello di prova, per me va benissimo così la modulazione, vuoi cosa ti cambia? Quello che MB più 5 metri, mettili a metà i toni e mi fai il passaggio a metà e poi al massimo. No, ma così sono a 5, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mettila al massimo. Così sono a 10. No, già, però fammi un passaggio lungo, mi fai parla e mi dice adesso sono a 5, a metà e così sono al massimo, così noto la differenza, se no non riesco a memorizzarlo. Ehi, allora, così sono a 10, guarda. Oh, canale 12, 27, 105. E parla alla metà? Canale 12, 27, 105, della modulazione di frequenza, l'operatore doppio RU che fa la prova radio, cambio. Questa è a metà già. Allora, forse sembrerebbe, però siccome sono molto simili, parla e mi fa il cambio parlando già, mi dici questo è a metà, sto parlando e poi mi dici lo sto mettendo al massimo in questo momento, fallo veloce il cambio, così noto cosa succede. Ah, vai, così sono a metà, guarda, e così sono al massimo, così sono al massimo, Roberto. Metti a metà un attimo già. Metà, questa è a metà e questo qui è al massimo. Sinceramente non è molta la variazione, però forse a metà va meglio già. Guarda a 2 come vado? No, a 2 no, assolutamente. E a metà c'ha tutti i toni belli fatti, là. Buonasera a tutti, doppio RUN che vi super cordializza. Se poi vuoi fare cose regolazioni più fini, come l'abbiamo fatto con lui, puoi manipolare, utilizzare il Mickey Gear dell'apparato e il Mickey del microfono, così si trova l'accordo migliore. Come abbiamo fatto con lui abbiamo tolto quei piccolissimi difetti. Sì. Questo qui il Mickey Gear della parte è al massimo, prova a abbassarlo. Aspetta, cazzo, allora. Fai le due prove, allora metti il Mickey Gear dell'apparato al massimo e l'MVP5 a metà e poi fai viceversa e ti dico se migliora o peggiora la modulazione. Microfono. No, no, sta uscendo già. Il microfono e la parata quanto è? Massimo. No, no, sali, sali un bel, sei basso basso. Guarda, così va bene. No, sei basso. Basso. Ora, così al massimo, vabbè. Al massimo cosa? Apri poco fa ti sentivo, adesso sei basso basso di radio. Vabbè, scusate un attimo, va. Con la modulazione del pizza, Antonè, cosa è successo con Gianni? Mettendo toccando appena appena i toni con quell'apparato ti migliora tantissimo. Io sono convinto che tu, se metti un MD più 5, sicuramente migliori quel piccolo difetto di cupezza del segnale, cioè della modulazione delle tonalità acute. Beh, quello stavo pensando anch'io, però sempre utilizzando l'amplificato. Adesso vedi, con l'originale, diciamo, sei comparato una via di mezzo. Non sbaglio, sei abbastanza pignolo, sono contento per quello. Niente, ripeto, con l'MBB più 4 sì, rimane amplificata, la sento grossolana. Invece adesso che sto utilizzando quello originale a mano, ecco, mi sembra molto più piacevole, è vero. Meno male i bassi, i medi sono abbastanza in linea, ecco. Sì, sì, confermo, naturale. Attenzione, se qualcuno vuole monetare davanti, chi è? Chi è in banda laterale? Boh, infatti, anch'io, era abbastanza forte. Chi è avanti sul 12, avanti che vuole entrare? È Gianni che non sta uscendo. Gianni, tu sì. Gianni, non stai uscendo se sei tu. Guarda un po', adesso... Aspetta, sto facendo casino. Adesso in questo momento ho intaccato il Galaxy con l'MB più 4. No, sei dentro una tamburlana, lascia perdere. No, ma, porca miseria, aspetta, Guarda, e anche mettendo la 2, vedi un po' sempre col Galaxy, a 2 sono. No, non va bene, sei chiuso completamente in modulazione, c'è solo medi, sembri dentro un citofono. Bravo, sicuramente allora è la capsula che non va bene, perché meno male, dicevano tutti che andava bene con quella. Aspetta un attimo, adesso faccio un'altra. Guarda, adesso in questo momento sto utilizzando il Galaxy col suo microfono originale palmare. No, adesso è un'altra musica, anche se non è forte, però è chiara la modulazione. È chiaro, non è forte come modulazione, beh, rimane molto più soffio, rimane. Riesci a vedere quanto sto uscendo, eh? Ora, aspetta un attimo. Stacche, aspetta. Così. Ok, così ho aumentato il segnale, però la radio è rimasta invariata. No, è peggiorato la radio, sta saturando. Sta saturando. Guarda un po' così. No, va bene. Non ho problemi, strano. No, io ho sapere quando ti ho ascoltato che eri attaccato non cambiava assolutamente niente, infatti ti ho detto era ottimo il discorso. Oggi come stai attaccando sale tantissimo il segnale, però la radio te la mangi. Me la mangio, aspetta allora, strano. Facciamo un'altra prova, vediamo un po'. Ok, aspetta. Ok, vediamo se vedo più il numero di entrata, avanti Gianni. Aspetta, Roberto, sto cambiando la batteria. K. E ora invece cambia? No, no, non mi piace come modulazione. Chiara sì, ma no, era molto meglio prima. Chiara sicuramente la capsula che non va bene. Adesso provo. Se hai qualche minuto di partenza ne faccio in fretta attaccata e rimetto quella che c'era prima. Ok, c'è qualcuno che manda portante, avanti che vuole entrare sul 12. Va bene, dimmi se adesso mi senti. Puglia. È una batteria, se no poi divento scemo e non capisco cos'è. Aspetta un secondo. Sono benissimo già. Poi Gnogno però. E avanti che chiama sul 12. Roberto Gnogno. Sì. Giovanni Gnogno. Tu sei il coso Antonio Proprio, ma come stai inventando altro? Io sono in direttiva, guarda com'è. Ah, tu sei? Normativo. Stai facendo malissimo, Anto, c'è un disturbo brutto e poi il segnale è quasi bassissimo, sta già cotto, sì. Hola. Ma no, 8 adesso c'è la lita 9, come mai? Guarda che facendo. Aspetta un po', hola. Anto, non ti sento bene, ti sento bassissimo di radio, segnale sei quasi 9. E ti stai portando un ruzzio forte appresso. Io controllo a me, visto che magari sei in condizioni così ti valuti anche l'antenna mia rispetto alla tua. Aspetta un attimo. A casa nuova, sì. Negativo. Aspetta un attimo adesso, hola, sei migliorato. Tanto, sei brutto come segnale e come modulazione, non mi piace. Quindi così vado bene, Roberto. Gianni, sei perfetto, non tocca nulla, da parte mia ottima modulazione. Se vuoi fare le cose pignole possiamo anche attentarci, se vuoi. Tempo ne ho, Robe. Tempo ne ho. Guarda, così sono a 5 come toni, così sono a 3, guarda se c'è differenza, no scusa, a 4, così guarda sono a 3, a 2 mi metto che non va bene, quindi da 3 a 5, guarda a 3, 4 e 5, guarda se va bene così. Io ti ascolto perfettamente, probabilmente hai mai sentito così bene. Però proviamo solo a fare una prova, Gianni. E tu hai messo il livello del microfono a quanto sei dell'MB più 5? A 10. Ed è l'apparato? Sì. Fai il contrario, vabbè, forse sei troppo. Fai una prova solo a vedere se cambiano le tonalità. Diminuisci l'apparato e lo metti a metà e lascia al massimo il mic. Ecco qua, fatto il gioco, vediamo un po' come va. Troppo basso, sali di più con l'apparato. Prova, 1, 2, 3. No, sali ancora. Così va bene, scommetto. Solo così già. Deve andare al massimo allora. Va bene così. Ascolta, se abbasso il volume, guarda, a 3 con mi ascolti. Chiuso è troppo. Troppo chiuso, no, troppo basso. A 6. Sali. 7, 8, 9 e 10. Mettilo un po' meno di 10. Così, guarda. No, no, parlare, sto passando. Quanto sei 8 adesso? No, adesso sono a 9. Allora, 27, 105, il canale 12 sulla modulazione di frequenza. Cosa ti devo dire? La stazione W che fa le prove tecniche di trasmissione del suo microfono elaborato. Però un pochettino di meno, questo solo per vedere. Appa, guarda di meno, adesso siamo a 8. Prova a fare un passaggio e poi me lo mettiamo a 9 di nuovo. Ehi, guarda, 1, 2, 3, siamo sul canale 12, prove tecniche di trasmissione. 1, 2, 3, prova. Gianni, sei perfetto, non tocca nulla, così sei 100% in modulazione, segnale, mi segnale, livello microfonico perfetto, non tocca nulla, questa modulazione è perfetta, senza nessun difetto di nessun genere. Sono tornato. Stavo manipolando qua, ho fatto un bel lavoretto. Perché avete parlato in due, cosa hai detto già? Vado a mettere a posto tutti gli attrezzi che stavo manipolando. Lascialo così già, non tocca nulla, è perfetta la modulazione, anche i tuni, non li toccare, sennò spurti la modulazione. Taci tutto. Anche da lontano va bene. Corello di Us. scusi, chiede conferma Gianni, come va la lontana? Sì, ti sento leggermente in lontananza. Adesso in questo momento ho rimesso la capsula originale delle BB più 4 montata sul Galaxy. Cambia? Adesso ho rimesso originale. 1, 2, 3, prova microfono. Ti ascolto bene io. Ma puoi sollevare anche il livello microfonico? Sono a 2. Sono a 2, ho rimesso l'originale. Conta che ho messo anche la batteria. Da 2 adesso in questo momento l'ho messo a 6. Sempre nel Galaxy. Questo è un MB più 4, e l'apparato a quanto è il mic? E l'apparato è sempre a manetta. Allora fammi la prova, ecco, ce l'hai a 6 l'MB più 4, mettilo al massimo, dici, questo passaggio al massimo e questo è la metà, così vedo cosa ti cambia. Va bene, vedi un po' adesso, così è al massimo in questo momento, ora sto regolando e l'ho messo a 5. Mettilo tra metà e il massimo. Ecco qua, ho regolato, da 5 ho passato a 8 nel Galaxy con la capsula originale dell'MB4 che avevo cambiato. Lascialo così, va benissimo, non toccare niente, va bene. Ma questo ha cambiato, vero, faceva meno schifo, sicuramente quella capsula che non andava bene allora. Ah, su questo apparato poco fa non mi piaceva assolutamente, adesso stai andando abbastanza bene, va bene da parte mia. Ok, sai che c'è Antonio Bro che sta facendo esperimenti, piccola chimera avanti. A tu, Antonio Grode si è fulminato con le mani sue. E a me, sempre bene, mi ascoltate, nessun problema. Ieri qualche scarichetta la tiravo, oggi mi sembra che non ne ho. Una cagata. No, cagata. Cagata. E beh, tu, ma perché non ti metti in condizioni serie di trasmissione? Perché non sono una persona seria. A parte una persona seria, però frequentando con le persone serie, probabilmente puoi avvicinarti a essere anche tu una persona seria. Chiaro che ti rapri tutto e ti rimetti come di prima. Già c'hai ragione, che bisogna prima trovare le persone serie. Lo so, qualcuno già c'è, dai, non dico che sono io, ma qualcuno frequenta già si trova. Ma tu dove sei? A casa dei tuoi o a casa tua? Io sono a Sennori. A Sennori che ti sei bonghia. Non ho capito, come mai, dice dopo devi sistemare tutto, ci avrei tutto pronto, invece ancora siamo un mese aspettando a te. Addirittura, sì. E poi, spiegami di questa manifestazione che dovrebbe essere domenica, così. No, negativo, ancora non mi hanno dato l'ok. Adesso ti sto tirando fuori con le pinze, non so, cosa stai facendo, adesso ti sei abbassato un bel. Antonio, tu l'ascolti ad Antonio. No. Eppure dice che è vicino, cacchio, dovrei sentirlo bene, invece è basso. Vedi un po' adesso, che ho cambiato il micro, basta al culo, la capsula, col Midland, cambia, vero? Sì, sembrerebbe, ma non più di tanto, dai, non c'è questo cambio completo, cioè così evidente, più o meno, dai. Niente di particolare, non lo sente amplificato, neanche così, a 5. No, non si sente amplificato, chi l'ha detto che non si sente, però la modulazione non è quella che piace a me, rimane un pochettino leggermente predominante, come ti ho detto prima, di tonalità medie, per cui ti dà un effetto leggermente citofonico, gli mancano un po' di bassi e gli acuti per dare la linearità, tipo quella di Gianni, la sentita quella di prima. Sì, esatto, ora mi sa che ho trovato l'abbinamento, conferma, mi faccio così, adesso col Galaxy, ma fanculo, sì, con il Galaxy utilizzo l'MB più 4, invece col Midland utilizzo il suo microfono originale che sto usando adesso. Sì, adesso va bene, questo è il suo microfono originale. Eia, Midland. No, così va bene, mi piaceva la modulazione, un po' più bassa, ma va bene. Arthur, vai tu. Arthur. Oh, c'è un po' di propagazione oggi, si sentono un po' di gente da lontano. E iniziando, verso quest'ora fortunatamente c'è molta propagazione, specialmente anche nei canali alti, come pochi giorni fa ha fatto un bel QSO. E spagnoli sono, e verso quest'ora incomincia la propagazione, si apre. Bisogna fare un giro di canale per vedere un po' cosa c'è. Papà. E beh, Anto, dimmi tutto. Anto niente, a scompare, peggio degli spettri, vediamo se Gianni Doppio Rumo è rientrato, avanti Gianni, mi prendi tra l'altro me. Allora Robert, allora Gianni, tu dico quanto posso essere pignolo. Cosa? Aspetta, adesso vi dico quanto posso essere pignolo. E cosa hai fatto adesso? Ti sei un po' abbassato di radio. Passatemi. Ma sei più lontano, cosa stai facendo? Adesso sono più lontano, sì. A parlare. 1, 2, 3, 4, 5. Stiamo facendo benissimo, non tocca nulla, sei perfetto. Eia, invece c'è propagazione a 27 534, Spagnoletti, banda laterale. Ma sono col Midland adesso, e vabbè, dove già è sull'altra paese. Ah, la mia pignoleria, la puoi sentire, Robert? Sì, ma... prendo la gratta dove c'è la capsula, ho fatto un segno appena appena nel microfono. Adesso sono andato, ho conosciuto i cadenti, ho messo la pittura dove c'era la scostatura e l'ho riportato a nuovo. Era una cosa quasi impercettibile, invisibile quasi. E l'importante non sia una mania la pignoleria. Cosa? Importante? Non sia cronica, che non sia una mania cronica la pignoleria. Guarda, io ti dico una cosa, essere pignoli non guasta. Non guasta, non essere troppo, ma a me piace l'ordine e queste cose. Io sono di natura perfezionista, mi piace tutto l'ordine, anche se metti due apparecchi, uno fino vicino all'altro, devo stare mezz'ora prima di trovare le posizioni, fare, cioè, da quel punto di vista anche io. Però certe cose sono tollerante, diciamo, per certe cose magari estetiche, magari se c'è un piccolettino, un segnettino, un graffiettino, dicono, a livello funzionale non li fa niente. È un pinolo. No, io non ho un apparecchio che abbia un graffiettino, niente. Sono tutti perfettamente nudi. Allora vediamo se il grobe si è svegliato dall'età. Avanti, Antu. Gli omosessuali sono pignoli. Cos'è, Antu? Gli omosessuali sono pignoli. Antu, ti tiro fuori con le pinze. O sollevi un pochettino perché adesso sei proprio a livello del QRM. L'ascolti tu già. Negativo, non ascolto. Ciao Antonio, se mi stai ascoltando. Ho modificato il microfono e adesso stasera come va? Senti, roba. Adesso non stavo parlando, ma tu lo stai ascoltando? Beh, non ho mai capito cosa combinare Antonio, o lo fa per dispetto, cacchio, se non è possibile, poco fa per dire un po' meglio l'ascoltavo, male di radio però un po' meglio, allora proprio in mezzo al QRM, Santiago 5 Sire. Ci sono gli spagnoli, oggi male lo coprono, non riesco a capire poi da dove sta trasmettendo per essere così basso. No, è che Antonio sta trasferendosi di casa, in condizioni critiche, vabbè. Non ha antenne, sta progettando sicuramente qualche dipolo o qualche cosa così. Io non ascolto il parente, probabilmente l'ha puntato verso di te. Sì, ma anche l'altra volta quando c'era un pezzo di filo elettrico, io ero a Santiago 9, adesso è Santiago 5, 5 sì, poco fa era 9 e poi di colpo si è abbassato il segnale. Non lo so, non so cosa dirti. Cava gava, andave. Comunque se non voglio essere critico, però questo va meglio del coso, del 14 come modulazione, molto ma molto più fedele, poi mi dirai che quello spinge molto molto di più, però come qualità di radio e modulazione questa è perfetta, non ti posso dire niente. Ma il Midland va molto bene, io lo so, con le baby 25 va bene il Midland, poi la capsula è azzeccata. Che è? Antonio di nuovo? Ma è buono che se non metti 60 ci metto la capsula di Sirio, va molto bene. E avanti. Capo, sono io Roberto, buonasera, ciao Giovanni. Questo è un capo da rumore, mi pare. Ciao Sandro, sì. Sandro, come mi ascolti in radio a Papatango? Ma guarda, stavo ascoltando, ma Roberto ti ha detto tutto. Ma è forte come radio, perché voglio sapere se non tanto va bene, là. Ma guarda, io ti posso dire che neanche vicino alla modulazione del 14, quindi vedi tu. Papà, l'ho modificato adesso, là. Quindi è andata bene la studia. Capo, se non sono troppo curioso cosa stai usando? Non sei curioso, è lecito saperlo. Un Alan 48 Plus omologato con un MB più 5 con una piccola modifica. Ecca, vabbè, la modifica già la sappiamo. Hola. Sì, l'ho sempre detto io. L'MB più 5 su 48 è un gran cavallo di battaglia. Guarda. guarda, è micidiale. Attenzione, Rocchissimo. Vabbè. E sarà anche da un po' che non lo usa. Ma davvero ci sei? Eccomi. Ci sono, sì. Perché sei grosso sta chiamando? Avanti a tu. È tratto San, d'altronde. Io. Ciao San. Buonasera da Barracuda. Ciao San, anche da parte mia. Perché stavo parlando con le grobbe. Avanti a tu. Guarda, si è migliorato. Cosa hai detto? Carlate, va bene, Antonio, parla poi staccano, va bene, riprendi tu già, poi speriamo che si rimetta a posto. No, se è Crote lo schiaccio. Non ditemi che c'è Crote perché lo schiaccio, eh. Però stanno schiacciando gli spagnoli di Santiago 5, figurati. All'anima, raga. Dopo, vabbè, Crote, la dritta. Vediamo, facciamo una chiamata generale sul 12. Attenzione, canale 12, Fibonetta in compagnia Roberto, Sandro da Porto Torres, Antonello da Naussi e Gianni da Sattari, città. E poi c'è il Grobbe nascosto dentro il Maccione. Avanti chi vuole entrare. Proviamo a guardare che abbiamo messo le cuffie, perché se ti ascolti in cuffia, non è proprio niente. Sento un bisbiglio, ma non riesco a capire cosa dici. Guarda, adesso hai trovato un abbinamento perfetto, non toccare niente con l'apparato, lo lasci così com'è, ci metti una croce, non toccare, lo lasci stare così, non ti fa modificare niente a nessuno, che la modulazione non si può dire niente, è perfetta. Cavano, ci vuole poco, bisogna comprare un po' di quei signori, da 5 euro l'uno li sta prendendo il mercatino delle pusce. Ma non è anche oltre al microfono l'apparato, vedo ogni differenza. Anche a me piace molto questa, molto più rilassante, non troppo incisiva, è bella da ascoltare. Come dal mic, quanto ce l'hai? Allora c'è qualcosa che non funge. Allora c'è qualcosa che non funge, lo già, io mi ricordo quando avevo fatto l'abbinamento al 48 con l'MBP5, con Mike Green tutto aperto dall'apparato, tenevo il volume del mic massimo a 2. Vabbè, dipende sempre dalla capsula che metti e anche dalla modifica che tu fai. Io gli ho modificato solo la capsula e basta, non gli ho toccato altro. Ah, ho capito, quindi la capsula non è la sua originale? No. Ah, ecco perché. Sicuramente questa capsula già ha un'impedenza leggermente più alta, per cui ti distorce meno rispetto all'originale, magari spinge di meno, però è molto più pulita come modulazione, non strappa per certe frequenze. E mi voglio sentire io, a vedere se spinge, se non spinge. Io ho provato a fare la modifica, mi avete detto che andava bene. No, con la modulazione va benissimo, è bella, chiara. Se ti ho detto che è meglio quella del 14, quindi vedi un po' tu, capito? Però diciamo che tieni a manetta il coso, evidentemente è il tipo della capsula, dai. Pagava, non lo so. Andava, vabbè, comunque interessante. E che vada bene, se no poi li rimetto quella originale, buonanotte. Ah, lasciamo così, non tocca nulla, non ti fa cominciare da nessuno. Il discorso è anche per me, allora io ho l'M600, sull'Intec, quello stazione base mai toccato, né niente, dovevo mettere al massimo. Se dall'altro Intec, insomma della stessa marca, non lo so cosa abbiamo fatto, quello lì volevo mettere al minimo, se no distorce subito. Dipende anche dagli apparati, magari se quello lì lo apri ancora un pochettino di più, la LC del tuo 48 probabilmente non c'è bisogno di metterlo al massimo e lavora in un altro modo. Però secondo me già non tocca nulla perché c'è una modulazione eccellente, senza imperfezioni e senza niente, se no te l'avrei detto, come ti ho detto tante volte. Ma io sei controllato anche il Tony col tuo vicino scorso. Poi se vai a macinarti la testa peggio ancora, dai. Va bene. Se uno esce perfetto, per dire, più di quanto più uscire, cioè più di così non più uscire, secondo me, stiamo parlando in AM, in frequenze di banda cittadina, stiamo parlando in FM broadcasting, dove la risposta di frequenza dell'apparato è completamente diversa, sia del trasmettitore che del ricevitore. Qua la frequenza di lavoro dell'apparato è da 300 a 3000 Hz, tu sei in quell'arco di frequenza, sei perfetto, non ti posso dire niente già, per cui cosa devi più fare di più? Esci più forte di chi su? Se vai più forte c'è il rischio che magari strappi su certe tonalità e disturci, come sta succedendo per certi versi ad Antonello Barracuda. Infatti ho detto, certe tonalità ce l'hai troppo esaltate, è bella la modulazione, però è leggermente esaltata per le tonalità medie e medio-basse, mentre col microfono suo originale era più lineare come modulazione. È solo questo, io dico, hai trovato l'abbinamento perfetto, non tocca nulla e lascialo così. Va bene, dai, tanto è inutile andare alla spucciare a chiedere il massimo è già quello, è già arrivato, e già va bene, ok, allora, se mi consentite un attimino voglio fare una cosetta, Anche tu lo stesso, Sandro, stai facendo benissimo, c'è le belle tonalità, la modulazione è lineare, non ci sono scoppiettamenti di frequenze strane, ti posso dire c'è un'ottima modulazione anche tu. Ehi, capa, dai. Vabbè, diciamo che io ho fatto diciamo un piccolo accorgimento su questo qui, ma diciamo che più o meno lo sanno tutti, di solito innescava e allora ho fatto un po' qualche lavoretino, ma va bene, dai, quando va bene, inutile stare lì a volere il massimo, il stramassimo, va bene così. Oh signori, io adesso stacco e guardo un pezzo di televisione, dai, vi saluto, buon proseguo a tutti quanti, ciao Gianni, ciao Antonello Daossi, ciao Antonio Grode se ci sei ancora, e ciao Alessandro, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, QRT da parte mia. K, ok. Ok, ciao Robè, prima di andarmi via, com'è adesso? Parlare. Ok, vedi un attimino, prova un pochettino. Ho fatto qualche variante, cosa hai fatto? Sì, ho fatto una piccola variazione, dai. Ma tu, scusa un attimino, il suono sembra un K con un 60, sbaglio è così? Il K con 60, 44. Dimmi solo per capirci, il livello del mic del K quanto ce l'hai tu? Oltre l'1 o sull'1? Allora ce l'ho tra lo 0 e l'1, a metà. Addirittura, cavolo, quindi stai spingendo parecchio, dai. Va bene allora, dai. Il mio è proprio a 1 spaccato. Ehi K, dai, no, già in linea. Già in linea, il dottore che gli ha messo mano già ne sa qualcosa. Ok, dai, di nuovo vi saluto, dai, buon proseguo a tutti, ciao ciao. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao Robe, buonanotte, buon trovato per domani. Avanti, Antonello. Ma invece mi ha consigliato di utilizzare questo microfono originale per il 68, non l'amplificato. Perché? Metto che secondo lui, guarda, adesso in questo momento sto usando il 68 col suo microfono originale, dove differenza tu? Senza ombra di dubbio esce bene, insomma, è pulita la radio, però ti devo dire una cosa, che quando metti l'amplificato rende molto di più che quando lo metti sul Galaxy, rende molto di più, va molto meglio col 68. Sì, come adesso per esempio, adesso ho messo l'amplificato. Caspita, si fa una voce. La donna non rimane pulita, vero? L'altra rimane più calda, questa è troppo grossolana, sbaglio. Mi sono ascoltata anch'io, non è che mi piaceva molto anche a me. Poi dimmi tu, ognuno per o male, dei rumori diversi di ascoltare giustamente. No, rimane appena più baritonale. Nel senso che ti innalza di più gli effetti, come si chiama, bassi, ecco. Sì, ma per me che ti dà la forza, diciamo, di amplificazione cosa? È quella mitica stoffetta, Sì, quello bene o male aiuta, diciamo, col segnale, quello pienamente d'accordo, ma adesso meno male, esatto, anche un pochettino sei più in lontananza e mi hai ascoltato in un modo o nell'altro, quale preferisci tu? Ma ti posso dire che la precedente, diciamo, è buona, e questo logicamente ha un po' più di amplificazione e la rende un po' più grintosa, ma sono buoni tutti e due. Sì, no, sono pienamente d'accordo, ma da parte tua non mi senti la modulazione grossolana, sì, amplificata, sì, ma non tanto rifinita, ovvero? No, no, va bene Antonio, va benissimo. Diciamo che è un'amplificazione non esagerata, diciamo che è normale, va bene. Va bene, dai, intanto lo uso uno o l'altro. Va bene, va bene. No, meno male, ho provato poco fa, c'è un po' di propagazione in bando laterale, perché in questi giorni, verso quest'ora, dalle 9 in poi, ci sono abbastanza spagnoli. Ieri, Antone, ti stavo dicendo, se vuoi sentire la mia, ascoltala. Secondo me è meglio questa anche per la lontananza, perché col microfono normale lontananza non è che ti sentano mi sa come. Col microfono amplificato io a Pordottore stasera ti sentivo come se fossi vicino alla macchina. C'è qualcuno col bip, avanti col bip. C'è qualcuno che sta passando il tempo, dai. Dunque Gianni, mi stavi dicendo che mi sentivi meglio con l'amplificato alla fin fine, dai, sempre con l'MBB più 4. Antonio, penso che tu non ne abbia altri, l'amplificato. E quanto so io non ne hai altri, sì, con quello lì penso che fossi, perché quando parli con quello ti ascolto benissimo, ma bene però ti sto dicendo una chiarezza nitido e forte, soprattutto la potenza del microfono in lontananza. Beh, quello sì, è fatto apposta. Ciao Sandro, ci sentiamo alle prossime. Oh, Sandro ti ha spennato vivo già, eh. Grazie, Buburi, io sono con 4 watt, logicamente, è normale. Ah, ecco, no, vabbè, con la scusa che lui è in lontananza, già va bene. Ciao Sandro, alle prossime. Ciao Sandro, ciao. Comunque questo qua va bene, dai, interessante che vada bene, mi dici che va bene, Antonio, e che lo lascio così, secondo me. Io sono pienamente d'accordo, confrontandolo con l'altro apparato un pochettino più professionale, diciamo, no? Diciamo professionale. Sì, c'è una bella differenza. Ma secondo me, guarda, quelli sono studiati per andare in quelle frequenze lì, invece per la 27, bene o male, fanno bene questi giocattolini. E quelli bisogna modificare, Antonio, per andare in 27, mica vanno così, ci vuole una modifica. Infatti, diciamo, perché nascono per quelle frequenze lì, devono lavorare lì, alla fin fine. Bisogna, sì, se si fa la modifica allora già va bene, ma è bello anche sperimentare, ogni tanto un controllo così. Sempre per cercare di migliorare il giocattolo alla fine. Ma molte volte è paura di toccare, per paura di peggiorare invece che migliorare. Sono capsule piccolissime, adesso l'ho tutto svuotato, il microfono riempito di cotone, perché qua ancora non l'avevo fatto ancora. Ecco, io l'ho fatto da 2 giorni dopo, mi hanno consigliato. E dunque ho fatto anche io quel lavoretto lì. Si riempie un po', ti dà quel senso, ti toglie quel senso di vuoto alla fine, sì, quello è vero. L'altro che avevo l'avevo fatto, ma non ti parlo di adesso, ti parlo già di 20-30 anni fa. L'avevo fatto con l'ovatta, l'avevo fatto, e risultava un bel corposo come era. E niente, devo la cosa, la capsula di cosa, il citofono, allora andava bene, dai, andava molto bene. Ma ci sente il QRM familiare, Antonio? Oh? E quello è bello. Sì, perché ti riserva un po' alla fine. Quindi guarda, uno dei miei sogni sarebbe, che mi sarebbe piaciuto avere, lo sai che cosa? Il Midland 8001 XD, lo conosci? Ma non mi piace, non mi piace come stile. No vabbè, meno male riporta sempre la tipica forma e il colore dei Midland, ma così in più che ha qualche regolazione in più, bande laterali 3 cm, rimane leggermente più lungo, vai alla fine, però porta sempre lo stampo Midland, con questo verde militare abbastanza oscurato. Guarda, per quello mi piace più il Magnum di quella britta. È che esce bene quando lo modifichi, come ce l'ha Gigi modificato, esce bene. Anche il Magnum piace anche a me, eh. Va bene, l'8001 l'hanno omologato. Quello è stato omologato con le bande laterali. Vede, giustamente quello invece no, però mi piace anche a me lo stesso, esteticamente è molto bello, quello luminoso, abbastanza possente, solo che tra uno e l'altro lì nel Magnum ci sono 100 euro in più, il 8001 viene 275 euro. Dipende di quale Magnum parli, se parli di quello mio costa 500 euro. Cazzo, così tanto, allora sono altri 300 in più. Se nuove costano tanto, adesso lo stanno anche abbassando, ma probabilmente non ne ho più visto guadagno, lo sai, uno solo ne hanno portato e me l'ho preso io, non venne più. E beh, qua sa di cosa trovi, no, su internet fortunatamente ce ne sono, anche nuovi, contatto di garanzia direttamente da negozi, di venditori qualificati e non con fregature, fortunatamente. Su internet sì, ma Sassari, per carità. No, parlo di internet, io non l'ho preso a Sassari, l'ho preso su internet, e Tecnocomunicazione l'aveva fatto arrivare per provarlo e me l'avevo comprato io. E dopo non ne hanno più preso. No, e se no, ne hanno preso tanti, ma 980 no. Ecco, tu c'hai il 980, giusto? O la S9? Io ho avuto due S9 e questo è il 980. Ah, ecco. No, già me lo ricordo il tuo mobiletto, è molto bello quando si accende. Fa già la sua bella figura. È peccato che non lo usi mai. Io già lo uso quando capita. Quando capita, tanto è. Io lo sempre le priorità. Lo sai, quello che mi piace. E in effetti è un bel apparecchio. No, l'estate, quello io lo uso per bombardare sul 45. Quanto esce? Più di 10, vero? Ma stai scherzando, 30 watt. Ah, basta, va. Buono, buono. Non picchia 50. E ora sì che fa la sua porca figura, eh. E quello anch'io, meno male, aspetto sempre l'estate che c'è propagazione, almeno ti diverti. Ripeto, adesso sicuramente se c'è un disturbi nel 68, in altre frequenze c'è propagazione. Ma dov'è che c'è anche propagazione? Io andiamo a divertirci, se c'è. Che frequenza hai detto? Mi devi lasciare però un attimo per attaccare l'apparato grande, va. Vedere se. Ecco, sì che sta, che attaccato. Che frequenza mi ha detto poco fa? Adesso devo provare, aspetta, perché nel Mida non c'ho le bande laterali. Adesso mi ha fatto il Galaxy e ne faccio un giro, te lo dico subito. Nel frattempo spengo qui, ha calcolato. Ah, sul 12, no, anzi, sempre in AM sul 14. Antone! Cane, ci sei? E bisogna andare in banda laterale sul canale 40, io ho messo USB in banda D e ci sono gli spagnoli. Anzi, non gli spagnoli, i brasiliani. Aspetta che ti dico la frequenza. 27.405, lasci troppo in alto. La banda è 27.455. Ora. Beh, dove sei? Se sei sul 40, sul 40 è manda B, sei già a B, C, in C è, sono 40 normali, la D sono gli 80 e sull'80 sopra. Esatto, sì, no, ma comunque l'altra è 27.455, lì già ci sono, sì, lo so, siamo fuori frequenza. Vabbè, solo per fare ascolto per entrare. Chi ti becca già? Sì. Via. Becco io, stai attento che sono sempre in agguato. Vabbè. Chi è? Sparviero, buonasera. Sai, mi stai ascoltando anche a 5.25, mi sto ascoltando anche qua. Ti becco io, se ti trovo ti taglio le orecchie, ciao. E lo so. orecchio da una parte e uno dall'altra. Sono spiazzo anche io stasera, oh oh. Ti posso dire anche che cosa stavate parlando, di tubi? Devo ritracciare in 10 metri, io picchiamo forte, dando carte, già, ui ui ui, vabbè, dai che vi sto ascoltando, buonasera a tutti e due, ha ragione Gianni, lì solo per ascolto, ma non per me, a me non me ne ha fatti nulla, anche a me sto ascoltando, è che c'è sempre qualche marpione, capito, che ti mette in difficoltà, se no non dai fastidio a nessuno. Oh, quello sì, ma ti voglio ricordare, Cla, lo prendo come data virgolette, come scusante, anche tu da ragazzo eri un pirata, o sbaglio? 20 anni mi ho fatto di pirata! Io una volta all'anno, là, tanto per togliermi il gusto a vedere se mi sentono, poi la verità non mi assillo più di tanto e giustamente so che non bisogna entrare lì, ma così a fare di quelle prove veloci, tanto per tagliare un po' la motononia, come tesinara, non venni uno, dunque volevamo provare lì. Monotonia, Antone. Monotonia, esatto. Tu ci vuoi ficcato da me. Sai che rispondo a Gianfranco, se non capisco nulla già. Dove sei? 5:25. Ehi. Sono andato a sera lì già, adesso te ne sei accorto. Ma io non l'ho acceso, non ce l'ho manco qua. Non l'ho acceso, per quello non lo so. Vabbè, stasera già li ho sentiti. Quando vado in bagno ascolto ogni tanto. E poi c'era anche sui 7000, 0, 50 o 75. C'era anche lì stasera lo stesso, c'era anche una bella ciarabellata anche lì. Intanto facevo un po' lì, un po' là, un po' lì, un po' là e un po' i 27, sempre così. E come non ne comprende più nulla? Questa adesso la radio ti piace? Sì, non è male già, si sente che è bella amplificata, però te la sento più cupa, l'altra era molto più, non già molta più naturaletta. No, c'è un microfono che sono incerto se comprarlo, no, perché ho paura di fare una gara, sto aspettando che lo compri qualcuno prima. Ah ecco, ma hai provato andare da Pomponio a provare il microfono che ti deve prestare? Non hai avuto l'occasione? No, Antonio, non ci sono passato. Ma che perché tu a me non riconosci bene. Cioè io non mischio il sacro col profano. C'è una cosa, è professionale mettere il microfono, capito? Non mi piace mischiare. Ah vabbè, quello è pienamente d'accordo, ma sai a volte, manco ti immagini, puoi sempre dire una cosa da due citi, porca miseria, e rimane trapigliato perché cambia l'oggi a domani, anche quello è un modo di sperimentare alla fine. Quello già è vero, ma se non mi riempie l'occhio quando lo guardo, non mi biaggi, cosa faccio? Ci ho messo anche le MV più 5, me l'hanno bocciato subito, mi Claudio. Questa cosa è bella sperimentare, se vi è piaciuto avere qualche microfono così professionale, così in prestito e provare a, diciamo, a piazzare questi apparati, così per sperimentare, per vedere se puoi migliorare, dare più naturalezza alla modulazione, ecco, che giustamente abbinata alla tua voce, tutto lì, l'esperimento è quello, e ce ne sono tanti da fare, per ogni microfono c'è la sua particolarità. Tante volte basta solo cambiare una capsula e si cambia completamente la modulazione. Sì, quello è vero, ma ce ne sono tante, sono per dire, avevo messo quella di quel microfono, ma di quel citofono, ma chi dice che era bella che la maggior parte non si sentiva male, mi sono sentito in cuffia e veramente stavo male, mi sentiva per niente bene, dunque ne ho messo l'originale e bisogna azzeccare quella giusta, ce ne sono troppe, tante anche, bisognerebbe fare sperimentare una, ma come fai, quanto devi spendere per queste capsule alla fine? O le trovi così, di fortuna, e provi, se sei fortunato va bene, se no ci c'è. Ma fammi capire, hai cambiato la capsula tu del tuo microfono? Sì, stasera, gli avevo messo una capsula di un citofono. Adesso gli ho messo l'originale di nuovo, perché mi sono ascoltato e non stavo uscendo bene. No, l'originale secondo le voci va bene. E infatti, mi sono ascoltato e abbastanza... Non è abbastanza, non è fastidiosa, l'ha amplificata sì, ma non più di tanto. E ci vorrebbe qualche mixer, quello sarebbe bello e allora il gioco sarebbe fatto. E dillo a... Te la specializzata in mixer, la cosa, come si chiama? Pinangelo di Alghero, quello vabbè di Sassari, però abita Alghero. E quello lì aveva il mixer, faceva tutte le voci, ecco, tutto visto di lui aveva lì. Sistemato da lui, fatto da lui, mettendo diversi componenti. No, il mixer ce l'ha comprato, un mixer a parte, quelli che usi per i complici che hanno ecco, che hanno tutto quanto. Mi ha attaccato il microfono suo, al mixer, e l'attacco del mixer l'ha parato, ecco fatto. Funzionava bene. E a voi deve funzionare bene, sia l'amplificazione, metterla ecco, tutto quello che voleva poteva fare, effetti strani, come lo fanno nei complessi lo faccio da lui. Ah ecco, no, io avevo provato una volta ma non mi era riuscito, sinceramente, avevo pure sbagliato qualcosa. Come gliel'ha fatto l'attacco? Non mi ricordo, io c'ho un mixer quando utilizzavo i piatti e c'ha solamente le regolazioni dei toni medi e alti e giustamente con una piccola amplificazione e basta tutto lì, però avevo provato non usciva, sicuramente ho sbagliato qualcosa. Lui l'ha fatto con apparecchi professionali . Quello pienamente d'accordo, no, questo è un mix che deve fare per dire una serata e usando i piatti dunque e alti a bassi canali e regoli un po' i toni, tutto lì. Guarda che se ti interessa ce n'è uno bello, 30 euro me lo vuole pagare, poi ho telefonato a Manuela, ma se ti interessava a me, ma bisogna vedere se c'ha l'eco, papà, e ce n'è un altro 150 euro che è a livello di quelli che usano i complici. Dove? Direttamente da negozio? Mercatino delle Cucce. Ah, sì. E vedi un po', per 30 euro se si può comprare, se c'ha quello che serve, allora sì. Sempre sperando che sia funzionante. Funzionante, funzionante, perché me la chiedo davanti, almeno la spia di cosa funziona. E vabbè, quello è un conto, però bisogna provare a mettere qualche sorgente e vedere un po'. Vabbè, comunque, io l'avrei utilizzato per il piatto, perché c'era un amplificatore, ma di quelli piccolini, te l'avevo fatto vedere, no? No, quello no. Allora, siccome il piatto non era amplificato, c'è l'uscita UX, che è un canale praticamente dove ci puoi attaccare tutte le sorgenti che vuoi, no? E io ho attaccato, non c'è l'attacco phone come c'era prima, c'è AUX, lo metti su AUX e gli ho comprato la GBC, un amplificatorino di quelli piccolini, che si attaccano dietro il mobiletto dello stereo, no? Di modo che non lo vedi nemmeno, con il trasformatore e basta, tutto lì. Senta mia moglie vivendo, ma te ne immagini, lo stavo guardando. E infatti, prima non sentiva nulla, come che è una cosa impressionante? Perché con qualche intensamente sta guardando il televisore. Cosa c'è oggi? Colorado? È possibile? O Zelig? Non so, sono lasciate le risate, quello già lo sento. Devono andare, mica deve venire Colorado se ti interessa. Il 23 o il 24, hanno fatto tutti i biglietti a casa, io non ci ho voluto andare, non me ne ha fottuto da 30, certo, si spende 30 euro, no 50 euro a testa mi pare, sono un sacco di soldi, capito, 30, 60, no forse 30 euro, forse 30, però è un bel soldi. Ho detto di no perché voglio risparmiare, non mi piace spendere così a me soldi. Per una serata che per buttarci tutti quei soldi non mi va. E guarda, sicuramente prima si poteva fare, adesso c'è sempre quella paranoia e si è presa anche tu dalla situazione che viviamo. Beh, io almeno 6 anni fa sarei andato volentieri, tranquillamente li avrei spesi, adesso proprio, guarda, sono al pensiero di togliere quei soldi per una serata, ci pensi, ma quelli me li avrei mangiati, mi avrei riempito lo stomaco per una settimana, c'è sempre quel pensiero, è brutta situazione, sì, però mi sarebbe piaciuto andarci, ma c'è una serata diversa, ma ho stato un pochettino più abbordabile, però maledizione, a vedere se non si fanno pagare. Ma tu pensi? adesso a Manuela, a Marco e lì sono 30, 60, 90. Se ci vado anche io sono 120, non va bene. Già, ma fortunatamente già sta lavorando, dunque perché no? Ne puoi approfittare. Una volta ogni tanto già non guarda, ecco. Invece da parte mia, la sa vedere, me la guardo in televisione, anche se non è la stessa cosa, quando guardi dal vivo è tutta un'altra minestra, ti diverti, ecco. Vabbè, ci troviamo verticale, racconto una cosa, sono andato anche a vedere a Pintus, come si chiama quell'altro, non mi viene, comunque quello dei comici. Ma se non sbaglio era l'anno scorso, ovvero dei comici sempre di Zilli che erano. Sì, quest'anno. Prima sono venuti loro, adesso viene tutto Zelig, però capito. Perfetto, il Teatro Verdi dovrebbe essere nella zona di Sassari Vecchio, giusto? Sì, al corso. Esatto, la zona del corso, lì già è bello, avete non ci sono mai entrato. Ho visto il nuovo teatro, quello sì, però quello del lì al Verdi non sono mai entrato. Poi è un teatro storico, è un teatro storico. Diciamo che dove va il sindaco per i cannelieri, dove fanno tutti i concerti grossi, capito? Sì, volendo, per andare a fare visita non dovrebbero fare storie, perché bene o male vedo sempre lì degli uscieri all'entrata, sempre ben vestiti, grassi, sicuramente sono sempre lì seduti. Sarebbe piaciuto chiederglielo a vedere se poteva entrare per vederlo, perché sono curioso, sono passato tantissime volte, lo guardavo da fuori, però non mi è venuto mai in mente di chiedere. Se te l'ho detto quando cantava Manuela, se veniva a te, se l'avessi visto, quando cantava Manuela, da poco, non è nemmeno molto che ha cantato. Mi ricordo perché non eravamo venuti, già mi ricordo, me l'avevi detto, sì, ma non mi ricordo che cosa mi ha impedito di venire, la verità. Sì, già capitava l'occasione. E adesso sto facendo i provini per Teleggio. Beh, qualche piccolo spettacolo, sempre in abito musicale. Sì. Mandano le cassette o i cd, cosa fanno, i dvd, mi mandano dove fanno feste, roba del genere, per far vedere chi canta, no? E se sono interessati ti ingaggiano. Ecco, è può darsi che la chiamano anche per fare qualche programma, intanto lo fanno lì dal vivo, mi sa che ci vediamo in televisione. Abbiamo detto che praticamente dovevamo girare tutta la Sardegna, hanno tutte le, diciamo, già predisposto qualcosa, e qualcosa la stanno diciamo progettando, ecco. Sapete una curiosità già, ma quando stanno guardando Zilig, perché mi sta intrigando quelle risate? Va benissimo, ma è anche quello ci divertente lo stesso, Io sento mia moglie, oh mio Dio, chissà qualcuno sta strampando. Minimo, perché la veri di quello, è qualcuno che si caga addosso, che strappa, gli parte a ridere. Mi sa che un'occhiata gliela do. Infatti io, sai cosa faccio quando strampa? La prima cosa che faccio è di guardarlo da vedere se c'è gente che sta guardando. Se lo fare brutte figure. Cerco di rialzarmi in fretta e fretta. Perché vi la vuota, se mi succede come mi stesse la volta che sono caduto dentro il bis delle anguille, che mi sono rotto un menisco e due legamenti, non ce l'ho fatta alzare. Il cazzo, lì non c'era nessuno che ti ha aiutato. Non come, se ti racconto la scena non ci credi. Allora io avevo scaricato un container e un bis di anguille dal furgone, me lo passavo la commessa la metteva nei carrelli e poi lo scaricava nell'altro bis che c'era il negozio, a mano, scaricato a mano. Una volta finito il primo bis, c'avevo il secondo di meloni, e allora cosa devo fare? Devo scendere l'altro bis vuoto, che dove c'erano le anguille, devo scendere e metterlo in negozio, di modo che poi ci mettessi i meloni di dentro. che ho fatto io, mi sono inchinato, lo stavo scendendo piano piano, poi lo stavo scendere di colpo, lo stavo facendo strisciare e scendere. La commessa non si è accorta che c'ero io dietro, ha tirato, mi ha fatto perdere l'equilibrio, ci sono sceso dentro il bis, ho saltato dal furgone e ci sono caduto dentro il bis incastrato. Cazzo, tutti guardano e riuscivo a mi aiutare, io come lo scemo lì dentro, avevo la gamba come se fosse una marcia sboccolata, ce l'ha presente. Così girava così a complessivo, beh, lo so cosa devo fare. Era già finito l'ora di lavoro, era anche tardi, avevo finito tardi. Ho preso il furgone e a malapena ce l'ho fatta tornare. Con la macchina, so se non ce l'avrei fatta, meno male ero in moto, sono tornato in moto, guarda, ce l'ho fatta così così, non riuscivo più a parcheggiare, non riuscivo a mettere il cavalletto, non sapevo come fare. Guarda, poi alla fine ho chiamato l'altro, quello che mi sta affrontando, me l'ho fatta mettere sul cavalletto, cazzo, non riuscivo a muovermi, grida dell'altro mondo, mi sono coricato a dolori, ma guarda, una cosa indescrivibile il dolore che ti vengo. Mi alzavo la gamba col piede dell'altra gamba, mi alzavo la mia per alzarmi dal letto, immaginati. E voi non siete andati in ospedale a farti controllare? Niente, che sono andato. Sono stato anche operato, sono stato operato al ghiere. Bellissima. Ma questo è successo da un bel po' di tempo però. E non la sai, no? Sono 3 anni fa. E sicuramente, vabbè, quando iniziato io di nuovo a rimodulare, per questa storia non è... Non lo sapevo che ti avevi fatto così male. Mi ho operato pure, meno male, l'operazione è andata bene, anche se col cambiamento di tempo un po' se ne è dovuto fare anche fisioterapia dopo, non è riuscita. Poi col battaglio dell'infortunio, dopo che mi era guarito tutto quanto, mi ha puzzinato la gamba per vedere se mi faceva davvero male, perché stavo continuando l'infortunio, perché stavo facendo fisioterapia che non riuscivo a muoverla bene la gamba, era bloccata. E ha preso e mi ha fatto leva, infatti mi ha fatto vedere le stelle del bastardo. Dunque, quanto è durata la malattia alla fine? Un bel po', un mesetto buono. 3 mesi. Dio mio, 3 mesi di infortunio, già è poco. Considera che avevo 2 legamenti staccati, uno al 50%. Ci ho detto andavo a lavorare con le fatiche che faccio, tutto quanto, tirando a fare le cose con l'altro e si staccavano di nuovo. Devono avere legamenti e cose di saldarsi, se no anche di nuovo ti parte. E quello è vero, per tutti gli sport che bisogna fare, caricare, scaricare, pesi, già ne sarebbe presentito, sicuramente. Adesso bene o male, adesso dovete stare bene col caldo, dunque c'è sempre quella temperatura alta, e sicuramente lo sentirai più dolore in inverno, vero? Allora, il primo periodo io pensavo di essere stato quasi miracolato, non sentivo nulla, né cambiamenti di tempo, nulla, ecco, e tutti mi dicevano, non è che te ne accorgi col cambiamento di tempo, invece io non sentivo nulla. Ho cominciato dopo un annetto a rompermi le scarpe, a cominciare, e poi oltre che mi fa il dolore lì nel ginocchio, mi ripercuoto su tutta la gamba, dalla parte della cuscia, tipo come se fosse infiammata, mi hai capito? Sicuramente stai risentendo adesso, anche giustamente con l'avanzare dell'età, inizia a picchiare anche lì, Diciamo che anche il lavoro è usurante. Siamo tutti col tuber saltare e quel cazzo di posti. Lo so, quello già è vero. Comunque se ce la faccio lunedì mi avvicino e provo a portarlo lì su all'ufficio personale. Papà, ma tu l'hai stampato da internet quindi... Ma l'ha fatto mia sorella direttamente. Vabbè, l'ha reso europeo alla fine, no? Con tutti dall'ultimo lavoro che ho eseguito al primo. Con tutte le date, le caratteristiche, che sì, è apposito. Diciamo, in un semplice curriculum europeo, sì, tutto quello che comporta. Sì, da poco tempo fa vendevamo anche i mobili, vabbè, qualcuno ci è rimasto ancora. Se no avresti potuto servire, diciamo, perché noi non li piazziamo, noi li portiamo anche con gli smontati, li portiamo e ce ne andiamo, no? Se li piazziamo loro. Vedi, anche quello sarebbe bello, sì. Se giustamente ce ne avrebbero veduto, diciamo, ogni giorno, ci fosse stato la vendita dei mobili, allora sì, eh. O almeno uno che sapeva piazzare ci vuole, scaricare e piazzare giustamente. Vabbè, intanto non è che andavamo molto lontano, facevamo sorso, segno di Sassari, di Punti, Sant'Oso, Ottava, tutte queste zone visibili. Non è che andavamo molto lontano a portare, c'erano quelli già piazzati e cose. Una volta che ci sono caduto dentro il letto di una cristalliera, mi ha fatto inciampare quella morra di nylon, cazzo, da poco non mi spaccola tutta la gamba. Ho dovuto fare il reso. No, l'ho portato da un vetraio e l'ho fatto rifare lì. Allora c'era qualcosa di semplice, alla fine, non erano di quelli molati, squadrati. No, erano vetrinette semplici. Allora, l'ho messo praticamente coricato, l'ho messo coricato, ho messo il cartone sotto, i lati e sotto, l'ho messo coricato. Stavo togliendo l'inverno, ho capito, inciampato nell'aria, ho preso il guvardo, gurubito giù il vetro. L'ho sfondato e ci sono stato col piede. Ma lo sai che non mi ho fatto un taglietto, niente. Almeno quello, a me invece mi è guidato una volta, avevo un fianco di un armadio da lungo 2,85 metri, sì, e ce l'avevo sulle spalle salendo le scaline, e lì di fronte l'ultima rampa c'era la finestra in ciampo, e giustamente avendo questo fianco di 2,85 metri sono caduto in avanti e ho sfondato la finestra in pieno. La signora ci ha mandato la mancia e con quei soldi avevo ricomprato i due vetri. Fortunatamente era una vecchia palazzina, dunque montava quei vetri semplici, non doppia camera, fortunatamente. Però buccia, quella di fronte, quella bambina che era di fronte, praticamente mia moglie era come la mamma. Stava sempre a casa, tutto qua, da quando era piccolina, e tuttora è così, tutte le sere viene a casa. È come se fosse la seconda mamma, quando il padre tornava da lavoro diceva dove è Lucia? E la mamma gli diceva dalla seconda mamma. Beh, una volta quando era piccolina non ha chiusa lì alla furia, al terrazzo, quella lì gridando, l'ha sentita la madre, ha detto cosa c'è lì? Dice Lucia mi ha chiuso fuori e non mi vuole aprire non so che cosa. Sono dovuto andare i pompieri, ho dovuto rompere il vetro, che doppia camera, tutto quanto, e farla uscire. È una cosa che c'è, dove è tutta la giusa, poverina. Ma era piccola, o sbaglio? Piccolina era, c'aveva 2 anni, mi fa 2 anni e mezzo. Poi io l'ha chiusa fuori, l'ha fatta stendere Liliana, e lì da dentro l'ha chiusa. Quel giorno, anche dopo la giusa, già continua a venire, sì. Guarda, ti sto dicendo che ogni sera è qua, ogni sera, vado a fare cena, è una cosa che non si crede, adesso dovrei chiamare a Marco. Visto buono, se ci vuole ogni tanto un buon vicinato che si vada d'accordo, è anche una cosa rara adesso, se anche qua per dire in via lo stesso c'è sempre gente che non si può vedere uno con l'altro. No, con Lucia ci da piccolina, e era sempre qua. Sto dicendo voleva venire sempre qua. La sorella pure veniva, però adesso che è grande, no. Invece lei continua, un portiere fa tutte le sere, suona il campanello, ci guardiamo i film, ci mangiamo la pizza, ceniamo. È come se fosse una di casa. Buono, sono cose belle a voglia. Lei peggio di questo è stata anche a casa invece qui, meno male. Ormai i figli non se ne fanno più, tutte persone adulte, e dunque uno più incazzato dell'altro, e alla fine ognuno a casa sua, però è sempre bello se viene qualcuno a provarti a farti visita e a voglia. La compagnia piace anche a Mammy, non ti credo, mi piace. Sì, quello sì, beh vabbè, a volte capita che, sai, dico le parole quotidiane, a volte non vuoi a nessuno, ma poi quando vengono anche in quelle occasioni ti aiuta anche un pochettino a rilassare, ecco la scusa, si mettono argomenti divertenti e dunque ti rilassi anche così. Puoi confrontarsi, beh, ugualmente a voi, no, la compagnia è già, guai se manca, Lo vedo che ultimamente, ma si vede un po' in generale, sono tutti troppo incazzatielli e vogliono stare un po' da parte a pensare. Però insomma, come? Smagarsi almeno nel momento serve, dai, serve almeno nel momento, dico. Perché poi dopo ci pesce, però nel momento te la vivi bene, capito? La serata che io mi sono passato per dire in quel ristorante cinese con tutti gli amici, le amiche e cose, sono stato bene. C'era anche la mia collega di lavoro. E vedi, quando sei una cosa in dubbio sei buono, poi sei organizzata meglio ancora. Sì, poi con la scusa anche il nuovo locale, poi c'è il mangiare in mezzo, già la passi la serata a voi, no, già sono cose belle, per carità, guai se mancano. E poi la grande spesa, abbiamo speso 18 euro a testa, abbiamo mangiato da vomitare, Antonio, da vomitare, c'era il service, c'era anche il gelato, te lo potevi mettere quanto volevi, c'era come nel bar, no? C'era giustamente il frigorifero con i gelati, con il gelato sfuso, tu andavi, prendevi la paletta, prendevi il cono, ti mettevi il gelato, quanto pane ne volevi, ti potevi fare tutto. Poi andavi, ti servivi, ci c'erano mille pasti, cose, che era tutta roba italiana, fettine impanate, solo il sushi c'era di riso cinese. Poi c'erano gli astici crudi, tu li portavi in cucina, te li cucinavano, ma io ho toccato nemmeno un quarto di quella roba, ho visto gente che si è alzata anche 5 volte, si è fatto tutto il giro, dove se la mettono questa roba? Cioè che io ho lo stomaco grande, ma mi sono fatto solo un giro e ho preso un primo, un secondo, il gelato ed ero pieno come un uovo. Quelle poi sono più gente ingorda qua, che poi alla fine quando mangiare così tanto stai solo male, il benessere di aver mangiato poco, un po' di tutto, però poco no, non è la stessa cosa, quando si strappocano così stanno male, io voglio vedere anche la voglia di pompare, mi fanno schifo quelle persone lì. No, la verità l'ho visto che lo stavano sistemando pochi mesi fa, però ancora non ho avuto la possibilità di andarci, speriamo, mi sarebbe piaciuto provare lì. Meno male, sì, 3 anni fa abbiamo provato gli altri, i primi che sono venuti, e si pagano 9 euro, e se non sbaglio si dice 15 o 18, sicuramente a volte varia, però mi sarebbe piaciuto andare lì, a quanto pare c'è molta più sostanza, dai, diversi piatti, confronto ad altri, lì sono massimo, ora 3, 6, 9, 12, una quindicina di piatti, nei primi servizi cinesi a Sassari. Sai quanti coperti ha fatto il primo giorno? 700 coperti, il primo giorno che ha aperto. Ho fatto il conto, ho fatto il break. Sono già, e come mai così calmo oggi? Sento bello rilassato. Buonasera a te, là. E te si conta già. Non c'è nessuno, sono un canello. E diciamo che stavo facendo un discorsino così, questo era tranquillo, pacifico. Oh già, buonasera. E un po' la guerra ci vuole, così ti diverti un po'. Fatta l'amore, non la guerra. Ma mi sa stava mettendo male il tempo, e qua sotto la mia voce c'erano le nuvole. Ok. Non sarà nemmeno una settimana. Quello piccolo, ti volevo dire, è 25 watt. Se lo vuoi vieni e te lo prendi. No, vieni e te lo porti via. Provato già. Comunque su internet ce ne sono un meme, che è 747, se vuoi un consiglio, pigliati quello che è la bomboletta. No, io ne conosco, diciamo, un veicolo di amatore che ce l'ha, però è più di 50 watt, è un mostro allucinante, grandissimo, e lo sta vendendo, non so quanto, devi chiedere a Pomponio, già ti porta lui e lo vedi un po'. Sai quello che dice Pomponio? 500 watt. Allora è quello lì, è una cosa, guardandolo così, abbastanza mastodontica, è bello possente, ne ha poche dialette di raffreddamento, ogni bestia. Ci vuole un bellissimo alimentatore lì, e oppure la batteria di una macchina, poi veramente è bello, so che funziona, però non so quanto viene. Lo ce l'ha sempre in vendita, è questo. Vedi, io 747 l'ho pilota con 30 watt, va benissimo. Esatto, 30 watt. 30 watt, come un apparecchio che va 30 watt, ho messo 747, va benissimo. Ti credi? Facciamo la prova. Quello di Giulio, tu non sai come la studia, lui gli ha bruciato il fulmine, poi il finale gliel'ha cambiato e sicuramente non gli ha messo quelli originali, non lo so, voleva l'ottaratti. Perché prima non faceva quel lavoro, dopo che ha pensato che i ferri si attirava un po'. Ma comunque è sempre, si può sempre provare, non c'è problema. Non è quello che c'è in macchina. Tu dalla macchina come mi senti? Sempre lo stesso apparecchio, lo stesso lineare. Qui esco con un 747 e con una LAN 48. Esatto. Yeah. Questo si chiama Tyson. La lettera? Cavagara. Non indovinato. No. Come l'alzi la portante. Bello, avanti. Invece io, anch'io c'è il tucu tucu tucu. I tucu sono buoni, mi piacciono i tucu. Però non vantarmi tanto, anche tu non scherzi, lascia perdere. Ma sapete, c'erano dei picchi positivi, vai entro il via morte e vai. Lascia perdere, che non è così. Già, ma come mai questo degrado di apparecchi, siamo gli apparecchi grossi e cose, adesso di colpo ti viene in mente di metterti apparecchi piccolini, come mai? Meglio così, dai, già in mezzo a uscire e confrontarsi e fare, parlare con gli amici e scherzare. Diciamo che quando se ne avvuda va bene, quando si è stanchi al lavoro, tante volte non si avvuda manco di fare quello. Ma perché io già sono quello che se mi telefono un amico che dice ci andiamo in pizzeria già, io punti, mi cambio anche se sono stanco e vado lo stesso. Ha detto che già va bene, tu hai detto se sei sempre in giro, già va bene a girare, a stare con gli amici, scherzare, confrontarsi. Ho detto io sono quello che anche se sono stanco mi telefono un amico e mi dice andiamo in pizzeria, pronti, vengo, mi cambio, mi lavo e via. Mi campano, cosa vuol dire a me? E qualcuno più di te ce l'avrò sicuramente, ne ho 30 sì. Ehi, a Sagoa, non si era a Sagoa, Polato? Mi stanno sputando. Allora, io ne ho super 50, però dentro di me ne ho una trentina, perché ho sempre frequentato con gente molto giovane, sono stato fatto volontariato con persone tutte più piccole di me, che ho avuto sotto di me, nel senso di cosa, di caposquadra. Li ho formati, li ho fatti, quindi sempre stato con persone più piccole. Quindi quando cresci stai con persone giovani, non ti rendi conto di essere cresciuto, capito? Sì, perché vivi bene o male con quelle persone, vai in pizzeria insieme con quelli, eccetera, eccetera. Io facevo queste cose, capito? Andavo nei locali, con loro, eccetera, eccetera. Sempre gente molto giovane, capito? Sulla trentina, 30, 25 anni, 30 anni, tutta gente molto giovane, con mentalità giovane, quindi apprendi anche il modo di vivere, capito, del momento. Se permetti di congiungere a chi la giuro più, non lo gioco. Avanti a te. Io da bene o male il più giovane in questo momento sono io qua, dai, tra voi due. 39, io non è che ne ho più così tanti, no? 39 anni, sono del 74. E se è salita? Per il momento siamo lì, una via di mezzo. Dopo i 30 anni si è salita, comincia a salire, prima si è in discesa, poi comincia a salire. E invece già di Chiaramonti, già di Dinamite, quanti ne potrebbe avere? Una trentina. Già ne giova. Buono. E ha voglia che sia giovanissimo ancora. E lo so perché sicuramente non ha mai avuto l'esperienza. No, io la mia esperienza l'ho avuto a 18 anni. Per fatto degli apparati, da lì ho iniziato. E cosa sono 5 anni? Con fronte 32, 33 che ho passato io con i baracchini. Gli asini ci sono tutte le parti, ma non mi sento tale io. Io non smetto di usare, so accordare, so fare tutto quanto. Non è che per presunzione, ma se no non smetto qua con la tarina, sempre funziona. Qua ti ascolto bene, a 27.05.50. E anche io sempre qua 27.105, no, sei perfettissimo, senza nessun problema. Sono traverso subito. Ma già io ero alla ricerca un po' di giorni fa, mi sarebbe piaciuto avere un vecchio apparato, vecchia generazione, che abbia le bande laterali. Sto cercando un vecchio apparato che abbia le bande laterali, però vecchia generazione, se tu avevi qualcosa. Diciamo che questi apparati al di fuori del Galaxy, giustamente il Galaxy ce l'ho, al di fuori del Galaxy, non so, una cosa piccola quanto un Midland, ecco, con una tecnologia del genere. Però io non ci avevo pensato, è giusto, giusto, quando lo sento provo a chiedere. Io non so nessun giro. Non giro a casa mia, basta, non giro, non so se giro io. Posso vendere, posso acquistare, però sempre molto limitatamente. Guarda, io non posso da cui puoi chiedere queste cose, te lo posso indicare, insomma. E poi Walter Diabuli, lui di barattini ne ha da sotterrarti. Vendita. È un grosso collezionista, ma ha preso anche doppioni. Doppioni, quindi magari qualcuno che ti può soddisfare ce l'ha. Di Galaxy ne avrà 3 o 4, di Galaxy Saturn Echo. C'è il DAC che è un apparecchio speciale, che non avrei mai visto se non fosse da lui. Poi c'ha tutti gli apparati dal più antico al più nuovo. Vedete, tutti lì fermi senza mai usarli, così alla fine, tutti nelle vetrine ce li ha. Esatto, esatto. Non li usa, li accende, penso che li accenda, penso. Poi da qualcuno una gattata me in terra, perché non ce l'ho posta a mettere. Quando sono andato io ne ho ordinato 70 tutti in una volta, sui miei. Donna santa, tutte di giustamente apparati che gli mancavano. Sì, sì. Molto diciamo che è un grande collezionista, forse senza forse non ce n'è assassino. Giustamente fa anche radioamatore, giusto? Anche radioamatore. Anche Marco c'era un periodo che era appassionato di queste cose, poi si era tutte tutte ai piedi. Questi apparati, diciamo, antichi. Anti, dinamite. Buona carica, ciao già, ci sentiamo. Avanti a te. Ehi, ciao già, appetito. Mi sa che vado a vedermi un po' di paperissima, già c'è ancora, sì. Che ora è? Le 11 ci sono buone. No, sono le 11:20. A che ora finisce? Alle 11:30? No, lo so, io il televisore proprio ne guardo. Però lo guardo, non è io. Ma fai spostare il radio? Che guardavo il televisore, prima guardavo molto di Max, ma adesso stanno sempre con questo televisore grande, guardandosi i film, e cazzo si può guardare mai nulla. Come a casa, alla fine, ma oggi sono curicate prete, per quello che la vita ne voleva approfittare, ma Non sento più ridere, come mai? Non sono più divertente. Perché Marcolino è addormentato vicino a me per la cronaca. Viviana e Manuela sono uguali alla televisione, ma penso che stiamo andando a roba seriosa, perché noi... Adesso la devo sentire gridando proprio, no, che è stato in azzicchito, tu non lo senti più bene al microfono, ma a casa, tu gasi non viene a me. Non ti preoccupare, si è sentito tutto già, tranquillo. Ho disputato adesso il microfono. Di più già. Ciao ragazzo. Ciao. Comunque qualcosa, te l'ho comprato qui con il microfono, quello in gomma più. Ma non l'ho preso ancora, già mi devo avvicinare. Adesso va bene, ok. Ma ero pilatro che è migliore. Io l'ho preso anche un azzurro, ma un po' me ne sono pentito. Azzurro perché c'è tutto colorato, qua c'è le luci blu, eccetera, eccetera. Poi un po' di anni fa avevo visto di questi mini amplificatori portatili, ci stanno, guarda, sono grandi quanto due pacchi di Marlboro, c'è scritto Marshall la marca degli amplificatori, piccolini, e ci metti le batterie e funzionano, ti danno 2 watt. Questo sarebbe bello usarli come casse esterne per gli apparati. Tu mai visti li hai? Diciamo, in qualche modo riproducono quei grandi amplificatori per chitarre in miniatura e amplificano ugualmente, ci puoi mettere un piccolo un microfono, anche una chitarra, e ti amplifica di 2 watt di potenza. No, io ne ho uno piccolino, certo, ve l'ho preso da GBC, non so se sono quelli che stai dicendo tu, ho pagato 35 euro. Cioè, questi qui sono amplificati, sia a batteria che a trasformatore, con le regolazioni dei toni, dei medi, di alti e del volume, e viene 40 euro. No, questo qui non c'è nessuna regolazione, c'ha solo gli attacchi audio e niente, tutto lì. Ci puoi, non ci può attaccare manco microfono, nulla, c'ha solo le uscite per l'attacco al canale AUX, capito? Ma comunque amplifica anche quello lì. Sì, quello sì, no, questi sono proprio specifici, è una cosa veramente carina, abbastanza decorativa e amplifica i 2 watt, giustamente tu l'uscita delle cuffie, attacchi quello e dai giustamente più volume e anche la possibilità di dare toni anche alla trasmissione. No, già sono molto carini, piccolini e portate giustamente, e c'è lo scritto proprio la scritta Marshall in alto, ci sono tutti i potenziometri per rifinire il suono, ecco, alla fine. Ancora io bene o male qua c'è un impianto 2+1, non so se tu li conosci, ed erano collegati al computer, perché il computer non c'è un cazzatufo di volume, e con quelle lì si sente un bel forte, proprio perfetto, si sente alla grande. Niente, quelle lì io le avevo collegate all'apparato e si sentiva benissimo, ma proprio amplificato, bello, sembrava stereofonico. Cazzo, mi hanno detto in frequenza e subito è stato Sandro, mi ha detto no, già non lo fare perché ti sbagli l'apparecchio. Allora adesso saccati subito. E alla fine per quale motivo te lo devi rovinare, non fa altro che il segnale amplificarlo, che problemi potrebbe dare all'apparato. Perché questa parte è una scheda audio, capito? Non so come il baracchino. Vabbè, non lo metti in dubbio, ma ti posso dire, qualsiasi amplificatore posso per dire collegare un telefonino e amplificare, per dire, no? Altrettanto è per l'apparato, non credo che dia tutti questi problemi. Tanto bene o male sta ricevendo l'uscita e poi giustamente l'amplificatore amplifica e manda a casa esterne. Dunque non dovrebbe così a conti fatti dare problemi all'apparato, ecco. Poi sicuramente qualche problematica ci dovrebbe essere più specifica, ma da parte mia non mi viene in mente niente. Anche io non pensavo più che sta accadendo, ma se si sia ragione ha già dato problemi per questo motivo qua, perché ha la scheda audio, è la scheda audio con già amplificata, tu gli dai la doppia amplificazione, capito? Rovini la scheda audio. Può darsi, che sia anche così. Ma io ce le avevo, sì, le 2.1, stavi dicendo, io ce le avevo, quelle volate. non mi è venuto mai in mente di collegarle qua. Ci ho messo semplicemente una colonnina esterna passiva e via. Si sente anche meglio. Ma buongiorno, io vado a guardarmi un po' di televisione, dai, ci sentiamo domani. Ieri Antonio, dai, ci sentiamo. Buona giornata per domani, dai, buona visione. Allora se faccio una spazzolata, là non c'è più nessuno, vero? E aspetta un attimo che te lo dico, vediamo un po'. Qua c'è te, no, facendo, cercando. Aspetta. Perché? Ma l'ha fatto il capire? Sì, li senti, ci sono, sì. E dove sono? Sempre in 145525 6.00. Allora vado a fare un po' d'ascolto. Va. Ci sentiamo un po'. Buon proseguimento, ciao. Ciao, buonanotte, a domani.